Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi parla della rivista, o meglio per dire La Revue, una rivista di informazione a fumetti che nasce nel 2022 ed esce in libreria ogni 3 mesi. Rispetto a un giornale tradizionale affronta temi e dinamiche che non scadono e, non avendo alcun introito pubblicitario, può scegliere in completa libertà di cosa parlare. La parola indipendente ha un senso. E allora Morena Moretti è arrivata a parlare con Andrea Coccia, che è il direttore responsabile, supervisione della parte giornalistica e lavora la scelta delle storie da pubblicare. Più avanti, poi a Corredo, sentiamo invece, sempre sulla Revue, la descrizione di Luca Baldassi, noto critico di fumetti, nonché legato all'ufficio stampa della Coccolino Press. E di Luca abbiamo una vecchia registrazione che tenne in un convegno proprio organizzato dal CRAP nel 2022. Il tema era Nuvole Ribelli e la Revue ci stava benissimo. Quindi prima Andrea Cocci e poi Luca Baldassi. Dal 2022 viene pubblicata una rivista di giornalismo a fumetti che è La Revue e chiediamo al direttore responsabile Andrea Coccia di descriverci la rivista, ovviamente, e anche quali sono i principi base di questo progetto editoriale. La Revue, come c'è sottotitolo, Informazione a fumetti, è una rivista di giornalismo a fumetti. Le cose principali che, diciamo, ci differenziano da una rivista normale di giornalismo, oltre al fatto che è a fumetti ovviamente, è che lavoriamo con dei tempi molto diversi dal giornalismo normale, perché ormai oggi su oggi, diciamo in gergo giornalistico, nei giornali normali, noi lavoriamo a un anno di distanza, ovvero dobbiamo scegliere le storie che raccontiamo un anno prima, immaginandoci appunto un mondo in cui appunto fra un anno non è che non possiamo trattare delle breaking news, ovviamente, non possiamo trattare di tutte quelle increspature della realtà che poi occupano le prime pagine dei giornali, perché un giornale normale, diciamo, è nato per raccontare qualcosa che succede solo oggi, non è successo ieri e non succede domani, se no appunto non fa notizia, si dice. Per noi invece fa notizia esattamente il contrario, quello che succede tutti i giorni, e questo determina tantissimo le storie che raccontiamo, che sono storie appunto che sui giornali si trovano soltanto quando succede qualcosa di gigantesco, il che fa sì che paradossalmente arriviamo addirittura in anticipo. Un'altra particolarità è che non abbiamo pubblicità, quindi possiamo scegliere tutte le storie che vogliamo senza avere timori di appunto qualche investitore che storce il naso. Abbiamo una politica di pagamento che abbiamo ereditato dal progetto che abbiamo, diciamo, importato dalla Francia, ovvero paghiamo tutte le persone che lavorano con noi nello stesso modo, in modo trasparente. Sul sito ci sono scritte le tariffe. In questo modo viene fuori appunto una rivista che non scade, a differenza appunto di un giornale normale, che il giorno dopo, una volta si diceva ci si incartava il pesce, adesso ci si lavano i vetri il giorno dopo, perché appunto il giornale è fatto per essere sostituito dal giornale dopo. Noi invece lavoriamo su 24 storie all'anno, che escono in 4 numeri, ogni 3 mesi, quando cambia la stagione, e niente, viene fuori una collezione di piccoli documentari a fumetti, di storie che riguardano l'Italia, essenzialmente, che grazie al fumetto partono dalle persone e quindi sono anche più empatiche rispetto a un giornalismo normale, e che riescono appunto a prendere un po' di più, anche, soprattutto i giovani. Come c'è la diffusione tra il pubblico giovanile, secondo i dati che avete? Viviamo il paradosso per cui piace tantissimo ai 20-30enne, ma in realtà ci comprano di più dai 35 in su. Beh, perché comunque abbiamo un prezzo di copertina che non può essere più basso, 20 euro a copia. Comunque sono 200 pagine di fumetto, non è neanche così alto, però effettivamente per un pubblico post-adolescenziale che invece apprezza molto questo modo di fare giornalismo è un po' fuori budget. Lo vediamo perché quando facciamo gli eventi nelle scuole i ragazzi sono veramente presi bene. È un giornalismo di inchiesta e di approfondimento. Effettivamente sono storie che non hanno scadenza, io la rivista ovviamente l'ho vista, e anche storie, diciamo, importanti, nel senso che le scegliete in base all'impatto che hanno anche sulla società, tu dici anche sul futuro ovviamente. Quindi il modo di scegliere queste storie, perché ve le propongono dei giornalisti. Sì, tutto inizia o da una giornalista o un giornalista che ci propone, in linguaggio tecnico si dice il pitch della storia, o se no sono io che curo la parte giornalistica, che chiedo a colleghe e colleghi che mi piacciono, che so che fanno un lavoro come si deve e che sono in linea con quello che vogliamo raccontare, di proporci delle storie. Le scegliamo sia perché, appunto, come ho detto prima, non devono essere legate alla contingenza del momento. Anche qui è un po' un ribaltamento del giornalismo tradizionale, perché non ci serve il classico gancio con l'attualità, perché noi l'attualità di quando usciremo non la conosciamo. Andrea, facci un esempio di una storia che ti viene in mente per far capire al pubblico di che cosa stiamo parlando. Per esempio, in questo momento stiamo lavorando su tante storie. Una in particolare che mi viene in mente così su due piedi è un'inchiesta sulla dipendenza da Vinted, quindi sugli effetti di un'applicazione per, diciamo, la vendita di capi usati, che sulla carta potrebbe essere un'ottima novità, nel senso che il riuso, il riciclo e tutta questa cosa qua sono elementi molto interessanti per la società in cui viviamo, però ha delle contraddizioni, quindi rende dipendenti le persone che la usano, moltiplica a dismisura la logistica, i pacchi. E quindi, per esempio, in quel caso indaghiamo quel fenomeno, che chiaramente non ha inizio né fine, cioè, oddio, non è che puoi dire oggi qualcuno è diventato dipendente da Vinted, cioè non è una cosa che finisce sui giornali. Oppure stiamo lavorando sull'impatto degli PFAS su alcune categorie di persone particolari, quindi per esempio gli sportivi, PFAS, che sono un inquinante molto pericoloso. Sì. Che appunto non abbiamo l'esigenza di tirare fuori qualcosa che nessuno conosce. Abbiamo appena fatto nel numero 15, quindi quello invernale, un'inchiesta sulla psicologia online, che è stata molto apprezzata e infatti è andato molto bene quel numero. Quello per esempio era una divulgazione di un'inchiesta che i tre giornalisti avevano già fatto video, quindi per esempio non abbiamo l'esigenza di fare qualcosa di estremamente nuovo, perché è già nuovo di per sé il modo in cui lo trattiamo. Appunto è spesso una divulgazione di cose che apparentemente sono note, nel senso parliamo di sfratti, parliamo di povertà, parliamo di scuola, ma in modo appunto non allarmistico, non emergenziale. Non dobbiamo aspettare che cada il soffitto di una scuola per parlare, per esempio, della situazione degli immobili scolastici. Stiamo dedicando a questo un'inchiesta che uscirà fra un paio di numeri sull'amianto nelle scuole. Ancora tristemente presente, cioè io ce ne ho 43 anni, mi ricordo che facevo le occupazioni 20 anni fa, anche di più, 30 anni fa, perché c'aveva l'amianto nella scuola, non è cambiato moltissimo. Quindi questo è il tenore delle storie che facciamo. Non scadono, riguardano noi direttamente, vengono trattate dai giornali poche volte, quando vengono trattate troppo velocemente, o appunto, visto che devono aspettare la tragedia, poi la singola storia oscura in qualche modo la dinamica. Un esempio di questo tipo che faccio spesso quando presentiamo una rivista è un'inchiesta che è uscita, cioè più inchieste che sono uscite negli anni sulla violenza di genere. La violenza di genere, come tutti i temi, può essere rappresentata da una piramide, cui sommità c'è il femminicidio. I giornali parlano di quello, perché devono aspettare appunto quell'increspatura, ma sotto c'è tutto un mondo che di meno grave in meno grave arriva a riguardare molte persone. Perché sai, da maschio posso anche dire, io non mi sento molto coinvolto, diciamo, dal femminicidio, cioè io non ho mai ammazzato nessuno e non ho intenzione di farlo, ma se scendi nella piramide di questo tema ti accorgi che magari ci sono dei comportamenti che fai anche su, minimizzare il punto di vista di una donna, fare dell'umorismo sessista, certo. E diciamo, sulla review è più facile che ci sia un'inchiesta sulle chat del calcetto e il sessismo nelle chat, piuttosto che la storia di un femminicidio. Ha lasciato il profumo sul cuscino, una tazza mezza piena sul tavolo, un messaggio m'ha inviato tra le bozze e la chiave di casa col telefono. Le hanno dato un nome al telegiornale, ma non quello che diceva sua madre, né quello scritto dentro i sogni che nessuno leggerà mai davvero. E sono nomi di donna, e Lui diceva è solo gelosia e intanto spegneva la sua libertà. I vicini sembravano felici, la polizia è stata una lite. Finirà e intanto un nome nuovo si aggiunge alla lista, come se fosse una statistica, mentre una foto diventa memoria e una vita sparisce nell'indifferenza. E sono nomi di donna, nelle strade, nei fiori, nei post, nelle voci di chi resta e non sa più come chiamarle. Non voglio più sentire, non succede qui, succede ovunque ci sia silenzio. Ogni nome cancellato è un colpo che ci riguarda. Ha lasciato il profumo sul cuscino, una vita intera in un titolo breve. E ancora la chiamiamo lei, come se bastasse a tenerla viva. Andrea Coccia, ti chiedo anche il rapporto tra giornalisti e giornaliste, che sono coloro che poi fanno l'inchiesta e scrivono, e gli illustratori e le illustratrici della rivista. Nella rivista c'è scritto chiaramente che non accettate le coppie già formate, diciamo. Esatto. Ma, e quindi le fate voi le coppie. Come accade? Questo compito in particolare si occupa l'art director Massimo Colella, che è come me uno dei fondatori. Adesso non so spiegare come faccio ovviamente, perché si tratta di sensibilità, però a coppia, a chi scrive, chi disegna, può succedere, cioè ci sono diversi crismi ovviamente, ci sono delle storie che richiedono qualcuno che disegni sul luogo, per esempio, non so, esempio, una storia che abbiamo fatto qualche numero fa sulla desertificazione della Sicilia, l'ha disegnata un artista siciliano che viveva quel momento, quel problema tra l'altro. Oppure ci sono storie che non hanno una radice geografica super precisa e allora si può scegliere qualcuno che non abita in un determinato posto per forza, ma che magari come tratto si associa bene a quel tema. Ci sono temi che richiedono dei tratti più cartuneschi, dei temi che richiedono tratti più realistici. Quando un tema è particolarmente scabroso e magari violento, tendiamo a scegliere qualcuno che ha un tratto più dolce per bilanciare, perché comunque il fumetto, come dicevo prima, ha questa capacità di farti entrare nelle storie dei personaggi e quindi, cioè, se è una storia già violenta di suo, non ha bisogno di un tratto che ancora di più esacerba questa violenza. Ti chiedo ancora l'ultima cosa, che è se vi siete ispirati ad altre esperienze editoriali per il vostro progetto anche estere, oppure è un'idea che nasce proprio da questo gruppo. Allora, il primo nome era la Revue des Cines in Italia. Siamo tuttora così all'anagrafe, nel senso che il nome è quello, adesso è diventato soltanto la Revue e si ispira alla Revue des Cines, che è un trimestrale a fumetti francese di cui noi siamo lettori e amanti dall'inizio, dal 2013 quando è uscito. Massimo, che vive in Francia, da tanti anni aspettava che qualcuno la facesse anche in Italia. Poi durante il Covid, quando in tanti abbiamo voluto fare delle cose matte, ci siamo stufati delle cose che facevamo, ha smesso di fare quello che faceva, che era pubblicità a fumetti, e ha cercato e ha creato una squadra di persone, tra cui me, e abbiamo lanciato questo progetto. Ma è un progetto che nel suo format nasce in Francia. Noi lo facciamo in modo diverso, nel senso che il pubblico è diverso, le sensibilità sono diverse, la grandezza è diversa, loro sono 20 persone in redazione, noi siamo praticamente 4, neanche 3 e mezzo, quindi chiaramente bisogna fare delle cose un po' diverse, però appunto il format è quello. Non avremmo scelto un nome in francese, se no non siamo dei mitomani. Sì. Quindi, invece, quali sono i canali di diffusione della rivista? Così diamo qualche indicazione anche agli ascoltatori che volessero acquistarla, leggerla. Allora, non avendo pubblicità, l'asset più importante per noi resta l'abbonamento. Quindi è l'abbonamento dal sito, larevue.it, e ci si può abbonare sia ricevendolo a casa, sia ricevendolo in una selezione di librerie che ci danno una mano per diminuire gli invii su gomma. Poi si può comprare dallo shop del sito, si può comprare in alcune librerie indipendenti, ma si può trovare anche in qualsiasi libreria di catena. È distribuita da messaggerie. Chiaramente più si scende in questa gerarchia, meno soldi arrivano al progetto. Noi insistiamo tanto che, soprattutto durante le fiere, che è molto importante l'acquisto diretto per noi, perché è come quei prodotti biologici a chilometro, cioè non solo non abbiamo pubblicità, non pubblichiamo pubblicità, ma non paghiamo per fare pubblicità alla review. Quindi tutto quello che entra viene investito in storie, nel nostro lavoro. Cioè preferiamo spendere il giusto per pagare le autrici e gli autori piuttosto che dare i soldi, non so, a Facebook per fare una pubblicità. Quindi questo per noi è molto importante. E quindi sì, si può trovare più o meno in tutte le librerie, se non c'è si può ordinare. Per noi ovviamente è molto prezioso che gli ordini arrivino direttamente il più vicino a noi. Quindi o le fiere, o le presentazioni, o le librerie indipendenti, o il sito direttamente. Qualche piccola storia ignobile mi tocca raccontare, così solita e banale come tante, che non merita nemmeno due colonne su un giornale. Una musica o parole un po' rimate, che non merita nemmeno l'attenzione della gente, le cose più importanti hanno da fare. Se tu te la sei voluta, allora non importa niente, te l'avevano detto che finivi male. Tuo padre sapesse qual è stata la tua colpa, rimarrebbe sopraffatto dal dolore. Uno che poteva dire, guardo tutti a testa alta, immaginasse appena il disonore. Lui che quando tu sei nata mise via quella bottiglia per aprirla il giorno del tuo matrimonio. Sognava laureata, era fiero di sua figlia, che solo immaginasse la vergogna. Se solo immaginasse la vergogna, se solo immaginasse la vergogna. E pensare quel che ha fatto per la tua educazione, buona scuola e poca e giusta compagnia, allevata nei valori di famiglia e religione, di obbedienza, castità e di cortesia. Dimmi allora quel che hai fatto, chi te l'ha mai messo in testa, e dimmi dove e quando l'hai imparato, che non sei mai vista in casa una cosa ben pianesta, di certe cose non si è mai parlato, e di certe cose non si è mai parlato, e di certe cose non si è mai parlato. E tua madre che da madre qualche cosa l'ha intuita, e sa leggere da madre ogni tuo sguardo. Devi chiederle perdono, dire che ti sei pentita, che hai capito e che disprezzi quel tuo sbaglio. Però come farai a dirle che nessuno ti ha costretto a dirle che provavi anche piacere? Questo non potrà capirlo, perché lei da donna onesta l'ha fatto quasi sempre per dovere. L'ha fatto quasi sempre per dovere. L'ha fatto quasi sempre per dovere. E di lui non dire male, sei anche stata fortunata. In questi casi sai, lo fanno in molti. Sì, lo so, quando lo hai detto, come si usa, ti ha lasciato male, ti ha trovato l'indirizzo dei soldi. Poi ha ragione, non potevi dimostrare che era sua, e poi non sei neanche qui dov'è. E allora questo sbaglio è stato proprio tutto tuo, noi non siamo perseguibili per legge. Noi non siamo perseguibili per legge. noi non siamo perseguibili per legge. E così ti sei trovata come a un tavolo di marmo, desiderando quasi di morire, presa come un animale macellato, stavi urlando e quasi l'urlo non sapeva uscire. E così ti sei trovata fra paure e fra rimorsi, davvero sola fra le mani altrui, che pensavi nel sentire nella carne tua quei morsi di tuo padre, di tua madre e anche di lui, di tuo padre, di tua madre e anche di lui, di tuo padre, di tua madre e anche di lui. Qualche piccola storia ignobile sei venuta a raccontarmi, non vedo proprio cosa posso fare, dirti qualche frase usata per provare a consolarti o dirti è fatta, ormai non ci pensare. È una cosa che non serve a una canzone di successo e non vale due colonne su un giornale. Tu te la sei voluta, cosa vuoi mai farci adesso? E i politici hanno ben altro a cui pensare. Politici hanno ben altro a cui pensare, e i politici hanno ben altro a cui pensare. E dopo Andrea Cocci sentiamo all'ora di Corredo un intervento di Luca Baldazzi, tenuto nel 2022 al convegno Nuvole Ribelli, proprio organizzato dal Comitato Ricerche Associazioni Pionieri. Come se si parla di graphic journalism oggi, non posso non citare un esperimento nuovo. Si diceva che non ci sono più riviste, giustamente, non ci sono più riviste per ragazzi, o c'è pochissimo che tratta il fumetto, però è nata una rivista italiana che si chiama La Revue Dessinée Italia, che si trova in libreria, non in edicola, perché hanno scelto anche loro questo canale di distribuzione e anche perché è una rivista libro, insomma è abbastanza corposa. E in realtà non è un progetto originale, perché riprende un progetto francese, lo si vede anche dal nome, la Revue Dessinée, la rivista disegnata, esiste in Francia da direi circa 4 anni, è una rivista trimestrale. E cosa contiene? Dei reportage giornalistici a fumetti. Il gruppo fondatore è costituito in parte da fumettisti, per esempio tra loro c'è Lorenzo Palloni, e in parte da un'agenzia francese guidata però da un italiano che si chiama Massimo Corella, e sul modello dell'omonima francese loro hanno deciso di raccogliere inchieste giornalistiche, chiedendo a giornalisti di proporre delle inchieste, dei temi di inchiesta, e facendoli lavorare fianco a fianco con autori di fumetti. L'esperimento è sempre un po' rischioso, perché non sempre il giornalista ha il linguaggio che servirebbe per il fumetto, la scansione delle tavole, il cercare di tenere alta l'attenzione creando, non dico un colpo di scena, ma creando un momento di suspense a ogni pagina. Ecco, sono tutti accorgimenti che sono proprio del linguaggio del fumetto e che non è detto che un giornalista abbia, però lavorando insieme giornalisti e fumettisti hanno prodotto delle cose interessanti. Per esempio c'è un'inchiesta sulla TAV, sull'alta velocità in Val di Susa, realizzata da due fumettisti piemontesi, Lorena Canottiere e Alberto Pugliafito, e anche in parte da fumettisti francesi, quindi dall'altra parte del confine. Se scorriamo il sommario, i titoli delle inchieste realizzate a fumetti sono Emergenza climatica, Narcoterrorismo, Il nervo della guerra, La nuova pornografia, Era solo un gioco, calcio sociale, il campo dei miracoli, la storia di una squadra calcio delle serie minori. Questo primo numero è una rivista ai primi passi, quindi è un esperimento, un tentativo. È un segnale incoraggiante perché segna un esperimento di effettivo giornalismo a fumetti con autori di qualità sicuramente alta, se i fumetti sono belli, sono ben disegnati, ben scritti, efficaci nel raccontare le realtà di cronaca di cui vogliono parlare. C'è tutto questo pezzo sulla crisi climatica che spiega anche molto bene tanti motivi che portano all'emergenza che stiamo vivendo. Thank you.